faccio lavorare e devo aprirli. Adesso dopo. Buongiorno. Bravissima. Allora, c'è questo. Questa è anche l'adice, c'è, vero? Sì. E allora? No, tu mi dici. Uno, e l'adice. 4,30. 4,30. Grazie. Ci sta dentro? Vuole una bustina? Sì, no, grazie. Metto tutto qua. Brava. Ecco. Mettiamo sotto il portafoglio. Grazie. E questo. Ecco qua. Che giornata, eh? Bellissima. Mamma mia. Non possiamo mica lavorare. Risparmiamo il riscaldamento. Sì, io devo ancora cominciare a accenderlo. Però? Sì, sì. Non è ancora acceso? No, a casa no. Ma scherzo. No, no, mi sarei affretta. La sera, quando sono lì davanti signora, al televisore. Signora, noi abbiamo fatto il cappotto alla casa. Ah beh, forse lì la tieni di più. 24 gradi in casa senza riscaldamento, ma tutto l'inverno. Però... Ah beh, cavolo, non accenderei neanche io. Però da, all'estate è da morire. Mi immagino. Ah sì? Sì, abbiamo dovuto fare l'aria condizionata. Che non si io l'ho sempre dentro, ho avuto l'aria condizionata io. Mamma mia. Però adesso per sempre la mattina quando mi sveglio ho 19 gradi dentro, eh. Ah, allora accendo, chiaro, è chiaro, no, è freddo. Ho proprio guardato, 24 gradi. A me non accendere io neanche un cammino. Perché? Fa veloce. No, ma poi anche troppo caldo non va sì, bene. Sì, no, no.